Quanta fretta, ma come investi? Cosa fai? Se li ascolti per un momento capirai. Lui è il Meazza, lei la Rosciani, sono i due di denari, di loro ti puoi fidar. Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Beh, sono contenta di essere risalita questa versione perché è notevole, eh. Questa cara mia, cara Deborah, buongiorno. Grandissima voce, buongiorno Mauro. Buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori. Ringraziamo tutti coloro che hanno voluto contribuire alla ricostruzione di questa vicenda di Bang Bang, che ti posso dire, certo, potrebbe aprire le puntate di Due Denari per un paio di settimane, sì, almeno. Esatto. Una vicenda che veramente aveva appassionato tutti, cioè, insomma, beh, me per primo, devo dire. Mamma mia. Allora, intanto abbiamo utilizzato questa canzone in una delle tante versioni, a quanto pare, ieri mattina, per raccontare la notizia tra virgolette frufru del giorno. Abbiamo raccontato la storia di questo rapinatore che aveva tentato di rapinare un supermercato qui a Milano e la commessa l'ha convinto a non farlo, e quindi siamo partiti con Bang Bang, versione di ieri mattina, era di quella che abbiamo messo? Guarda, non me lo ricordo, ma una versione sicuramente in inglese. Allora io mi sono... di Nancy Sinatra. Era la versione di Nancy Sinatra. Allora, la versione di Nancy Sinatra, peraltro, allora abbiamo nel frattempo imparato questo, sì, che... Nancy Sinatra fece questa versione di My Baby Shot Me Down, yes, poi Bang Bang più familiarmente, nel 1966. Questa versione è quella che è stata ripresa da Quentin Tarantino nel 2003 per Kill Bill volume primo, quindi è per quello che è diventata anche un po' più famosa. Ma questa canzone My Baby Shot Me Down l'ha cantata un po' tutti, sia in Italia, di là dall'Atlantico, sia di qua dall'Atlantico, cioè in Italia. Allora, la versione che abbiamo ascoltato è della strepitosa voce di Cher. Sì. Uno. Ed è una versione che lei ha ripreso anche in due momenti diversi della sua carriera. Ma quanto ti piace parlare di musica? Ma perché non cambiamo versione a Due di Denari? Dai, diamo sempre di più una spinta musicale, capovolgiamo gli argomenti. Comunque io ti voglio dire che, come segnalavo ieri, sì, ieri ho sbagliato perché ho detto che la cantava anche Caterina Caselli. L'hanno cantata tantissimi, ma la Caselli non ci risulta. Non so se adesso qualche ascoltatore collezionista oppure è in grado di soccorrermi. Oppure se ci chiama smentisce. Allora. Comunque, l'hanno cantata qui in Italia Ornella Vanoni, Ivan Cattaneo, Ivana Spagna e poi naturalmente Dalida, che avevamo già segnalato ieri. Forse la più famosa in assoluto. Anche Mina, che è stata in una delle sue rare interpretazioni, non l'ha però mai più ripresa. Ma la prima, primissima che la cantò in Italia fu Milena Cantù, Ragazza del Clan, perché il brano venne tradotto da Alessandro Colombini e Michi Del Prete per il Clan di Celentano. Eravamo negli anni 60, e poi anche per l'Equipe 84, che incise la stessa versione della Cantù, mentre quella di Dalida era leggermente diversa nel testo. Mi risulterebbe anche una versione in napoletano. O Ciumbia. Eh sì, l'hanno incisa i Converse. Va bene. Adesso sfido Marco Lombardo a trovare pure questa versione. Guarda, ti lancio il guanto della sfida. Questa è quella di Ornella Vanoni? No. È Dalida. Ah, quella di Dalida, scusate, no, non la sentivo perché qua chiacchieriamo con la regia e quindi non stavo ascoltando bene. Ne ha fatta anche una versione in francese. Sì. Va bene, Carla ma oggi... Bruni l'ha fatta anche. Anche Carla Bruni ha fatto una versione. Ma la cominciamo sta puntata stamattina. No, infatti no? Volevo dirti, scusa, vorremmo annunciare ai nostri ascoltatori che comunque oggi non parliamo di Bang Bang per tutta la puntata. No. Anche se vi faremo sentire più versioni magari nei giorni a venire, così potete anche confrontarle. Se, esatto, anche se qualcuno pur di non utilizzare il post si farebbe sparare un colpo di pistola a un piede. Però dobbiamo, ci corre l'obbligo di dirvi che, ohimè, bisogna rassegnarsi a usare i contanti o i mezzi tracciabili di pagamento. Ve lo avevamo già detto lunedì. Sì. Perché il Sole 24 Ore del lunedì, meritoriamente, ha fatto una inchiesta certosina, oserei dire. Esatto, con un grande tabellone dove informa su come si può ancora pagare in contanti, dove, che cosa si può ancora pagare in contanti per le spese sanitarie e cosa invece, se volete lo sconto del fisco, la detrazione, non potete più pagarlo in contanti. Cioè, pagatelo in contanti, ma poi non potete chiedere lo sconto al fisco. Quindi scusa un po' un attimo, perché sai che stamattina dovrei chiarirmi una volta per tutte qual è la spesa di natura detraibile e qual è quella di natura deducibile. Se io vado dal dentista e pago la prestazione professionale poi voglio scaricarla dalla dichiarazione dei redditi, quella è detraibile? Sì signora, è proprio così, è detraibile, perché le spese deducibili in materia sanitaria sono solo quelle per malattie molto gravi, quelle e invalidanti, quelle che riducono praticamente l'ammontare del reddito. Diciamo che sì, saresti contenta dal punto di vista fiscale, ma non saresti affatto contenta di avere una spesa sanitaria deducibile. Benissimo. È meglio avere delle spese sanitarie detraibili, tra cui però ci sono anche, che so, visite specialistiche, visite di professionisti, acquisto di protesi, lenti a contatto e altri materiali. Quindi diciamo il panorama delle spese che sono riportabili in dichiarazione dei redditi per ridurre l'IRPEF è molto ampio, e allora per quello è importante sapere che cosa si può ancora pagare in contanti e cosa no. Ma noi oltre chiaramente a spiegarvi bene come funziona in questo 2020 da questo punto di vista, rifaremo anche un punto della situazione sui limiti del contante, quanto possiamo pagare appunto utilizzando i contanti, o quando diventa obbligatorio utilizzare la moneta elettronica di pagamento, non solo per le spese sanitarie ma anche per tutte le nostre altre abitudini di consumo, cioè quando l'esercente è autorizzato a dirci no, io tutto questo pacchetto di banconote non posso accettarle, devi pagarmi con la carta oppure con il bancomat. 800 24 00 24, fra un po' potrete interagire con i nostri ospiti di valore mondiale, sono Cristiano Dell'Oste del Sole 24 Ore, Nicola Forte, nostro consulente tributario ed esperto del Sole 24 Ore su queste delicate tematiche. 349-238-6666, se i vostri dubbi, le vostre richieste, le vostre segnalazioni volete mandarle con un SMS o con un messaggio WhatsApp, anche, perché no, messaggio vocale. Prima di tutto ciò, naturalmente, avremo anche subito già un messaggio. Non sto a leggere tutti quelli su Bang Bang perché archiverei rapidamente la faccenda. Visto che parlate di POS, proprio questa mattina ci racconta un ascoltatore, mettendo un emoticon un po' arrabbiato: la banca mi ha aumentato le spese mensili da quale cifra non so, di 10 euro, siamo in un paese di doveri e pochi diritti, ci racconta Stefano. Non so se questo aumento del canone è legato in qualche maniera al fatto che utilizzi dei POS. Stefano ci circoscriva un po' meglio il suo messaggio, ma di fatto insomma stanno diventando un po' più onerosi i nostri rapporti con la banca. Beh, però diciamo che in materia bancaria uno non è che sia obbligato, non si sposa con una banca, no? Quindi può sempre cambiare banca e andare a scegliere quella che magari gli conviene di più. Vorrei partire, sì, col giornale radio del risparmio, se con il tuo permesso. Adesso canto un attimo. Sì, devo fare un passo indietro. Passo indietro. Non apriamo pure questa parentesi che non ne veniamo fuori. Via. Deborah Rosciani e Mauro Massa risolvono tutti i problemi di cassa. Il biglietto regolare. Eh sì, è Ticket to Ride, proprio un biglietto per viaggiare nella metropolitana di Torino, e sì, però non andava bene. No, allora, praticamente la signora all'ingresso del tornello della stazione Nizza del metro appunto di Torino, è entrata regolarmente, ha obliterato, come si suol dire, cioè, il biglietto, il titolo di viaggio, chiamiamolo così. Avrebbe timbrato. No, avrebbe. Lei dice che ha timbrato. È stata controllata, come spesso capita appunto, dal controllore, e però non c'era la strisciata apposta appunto al retro del biglietto, e lei è rimasta anche un po' sbigottita, dice: ma come, io l'ho passato il mio biglietto come facciamo noi qui con la metropolitana di Milano? Pare che sia finito l'inchiostro e nessuno l'aveva messo, e quindi esatto, la timbratura non era avvenuta in realtà. Il biglietto era stato obliterato correttamente, però non era timbrato, non c'era la traccia di inchiostro, e quindi la signora è stata multata. Certo, e anche perché lei ha detto: come ho fatto a timbrarlo, scusate, dicendo ai controllori, se non avessi timbrato non si sarebbero aperti i tornelli. Insomma, questo viaggio in metro le è costato 45 euro, e peraltro le hanno anche detto, pur avendo verificato che effettivamente il tornello era privo di inchiostro, cioè non inchiostrava il biglietto, le hanno anche detto: ma lei deve controllarlo, il passeggero leggero, è tenuto a controllare se tutto è avvenuto regolarmente, se la timbratura è avvenuta regolarmente. Quindi verrebbe un po' da dire multata eppure sgridata, che non sembra tanto, a me sembra un po' un eccesso di zelo, però non voglio discutere con la metropolitana di Torino, non vorrei mai doverla prendere qualche volta e pagare anch'io un extra per il mio dubbio. La questione delle bollette a 28 giorni, Mauro, ma vuoi non avere anche una puntata oggi? Ma ci mancherebbe altro. Allora, pare che stia facendo litigare pure le autorità. L'antitrust da una parte, l'autorità garante del mercato e della concorrenza, dall'altra parte l'autorità garante delle comunicazioni. Ma perché? In relazione a notizie apparse sulla stampa, il presidente dell'Agicom, Angelo Cardani, avrebbe espresso a nome dell'autorità il suo rammarico per la pubblicazione di informazioni infondate prima che il parere fosse reso noto all'antitrust. Cioè, praticamente le due autorità si scambiano di norma pareri obbligatori ma non vincolanti. Che cosa succede? Io sintetizzo molto. Pare che l'Agicom non sarebbe d'accordo sul comportamento che avrebbe assunto l'antitrust nei confronti delle compagnie che avrebbe più volte ripreso le compagnie di telecomunicazioni appunto sulla questione della bolletta a 28 giorni, richiamandole al loro dovere di indennizzare abbastanza rapidamente appunto tutti i consumatori che avrebbero pagato di più. Per cui nella sostanza poi l'antitrust avrebbe detto le compagnie avevano fatto cartello in questa decisione, in questa misura che ormai risale a 2 anni fa. Sì, nel 2018, è la primavera del 2018. E la Agicom dice no, secondo me non avrebbe fatto cartello, ma in ogni caso insomma adesso abbiamo anche questa nuova puntata che non so se è divertente o meno, ma di fatto sembra che si frapponga quindi un ulteriore, non lo so, ostacolo sul cammino delle compagnie a risarcire i consumatori, anche se in realtà stanno in molte restituendo quello la che hanno. La parte, diciamo, della restituzione delle bollette a 28 giorni, essendo intervenuta nel frattempo una norma di legge che impone la fatturazione a 30 giorni, non dovrebbe essere in discussione. Quello che è in discussione è se queste compagnie vanno multate oppure no per la presenza di un cartello. Vedremo quale delle due autorità avrà ragione in questo confronto, in questa diatriba. La Commissione Finanze della Camera ha dato il via libera al decreto legge per il salvataggio della Banca Popolare di Bari. La prossima settimana il provvedimento va alla Camera, ma noi vogliamo segnalare che domani Plus 24 delle Sole 24 Ore affronta il caso della Popolare di Bari, affrontando in particolar modo tutto il tema della mancata liquidità di questi prodotti di investimento e risparmio, tra virgolette, sottoscritti dai clienti della Popolare di Bari, che spesso appunto sottoscrivono azioni o obbligazioni di molti istituti bancari e poi non hanno la possibilità di rivenderli perché non c'è un mercato per questi titoli, non sono titoli liquidi, e quindi Plus in qualche maniera esplora tutte le possibili alternative che potrebbero in via teorica prossimamente magari risolvere questi problemi, che hanno ancora tanti sottoscrittori di questi titoli di altre banche. Sono banche che stanno bene, quindi chiaramente le emergenze non emergono, però è un tema che c'è, che esiste, e quindi si fa una inchiesta molto dettagliata su questo punto. Plus di domani, dove trovate anche naturalmente le risposte ai quesiti che sono arrivati alla casella di posta elettronica proprio dedicata a queste vicende della Popolare di Bari e in generale anche alle difficoltà per questo tipo di investimenti in azioni e obbligazioni bancarie. La casella, ve lo ricordiamo, è filodiretto@ilsole24ore.com. Allora, vuoi raccontarci del boom del riscatto della laurea agevolato o dell'indagine di Mediobanca? No, io preferisco il boom del riscatto della laurea. Ci avrei giurato. Sì, perché la nostra amica Francesca Barbieri, che è una voce nota agli ascoltatori di Due di Denari, ci segnala oggi che ci sono state quasi 29.000 domande per il riscatto ordinario della laurea, cioè non è quello scontato, per così dire, che è stato varato l'anno scorso, e poco meno di 35.000 per quello invece agevolato. Poi 5.000 domande per la pace contributiva. Insomma, in totale siamo oltre le 67.000 domande arrivate all'INPS tra il marzo e il dicembre del 2019 per recuperare anni e contributi ai fini pensionistici. Era questo del riscatto della laurea fino alla sua formulazione agevolata un istituto abbastanza così trascurato dagli iscritti all'INPS, dai lavoratori, e invece ha subito con questa possibilità anche di avere un riscatto agevolato un ritorno di interesse. Non sono trascurabili appunto neanche le 29.000 per il riscatto di tipo ordinario, che come sappiamo è abbastanza oneroso, specialmente se viene fatto a fine carriera e quindi già con delle retribuzioni più dense, più cospicue di quelle che possono essere fatte all'inizio. Un'ultima notizia di carattere economico-finanziario che riprende i temi che affrontiamo spesso ad Investire Informatici. La consueta indagine Mediobanca sull'industria dei fondi di investimento è un'indagine molto accurata sul tema dei rendimenti e che peraltro negli anni passati ha messo in luce un po' tutti i limiti dello strumento fondo di investimento, che spesso aveva dei rendimenti non adeguati ai benchmark di riferimento. Adesso non sto tutto a raccontarvi appunto tutta la problematica dei fondi risalente agli anni passati. Quello che ci interessa raccontare è che questa nuova indagine in realtà in qualche maniera sembra essere migliore di quelle riportate negli anni precedenti. Dal report, che viene raccontato molto dettagliatamente questa mattina anche da Antonella Olivieri sulle Sole 24 Ore, è emerso che, senti un po' Mauro, 100 euro investiti alla fine del 2008, quando stava scoppiando la crisi finanziaria molto importante degli ultimi anni, a settembre 2019 sarebbero cresciuti a 191 euro se impiegati chiaramente nel comparto azionario. Sarebbero diventati 113 euro se investiti in bot annuali. C'è una parte molto rilevante che riguarda anche i fondi pensione, che nell'arco dell'ultimo decennio hanno reso più del TFR mantenuto in azienda. In particolare sono andati bene i fondi pensione aperti, che avrebbero permesso al capitale di lievitare dai 100 euro iniziali a 160. Ora, ho sottolineato questo aspetto perché molti ascoltatori ci stanno chiedendo di ritornare sul tema del fondo pensione, come sceglierlo, a quale età. Ci sono molte famiglie che ci scrivono perché sono intenzionate a fare questa scelta per i figli, anche se non sono entrati nel mercato del lavoro, ma magari i genitori si incaricano di partire con questi piani di investimento che hanno bisogno di un lunghissimo termine. E allora ci stiamo pensando con Mauro per fare delle magari anche più puntate su questo argomento, perché è molto delicato e di grandissimo interesse. Me lo segno. E invece segnati questo che è arrivato a Dillo a Due di Denari. Dillo a Due di Denari. Buongiorno, chiedevo se secondo voi è uno stato normale quello che considera uno stato un figlio autonomo se incassa poco più di 2000 euro all'anno. Cioè praticamente io ho mio figlio in casa, ogni tanto slavoricchia, passa i 2000 rotti euro all'anno, io non posso metterlo in carico in denuncia di reddito a me perché passa i 2000 rotti euro. Sarebbe autonomo con quella cifra lì. Cara Debora, non solo il signore ha ragione, ma quel limite lì dei 2000 rotti euro erano i 5 milioni di lire, quindi stiamo parlando di cose veramente del secolo scorso, sono rimasti lì. Non c'è inflazione, non c'è andamento, non c'è adeguamento che tenga. Il fisco, poco oltre i 200 euro al mese, considera che un giovane, ma chiunque insomma, un familiare, non possa più essere a carico. Quindi evidentemente ha dei posti dove fare la spesa o affittare una camera che noi non conosciamo, sì, noi esatto, comuni mortali. A 5 centesimi al giorno. Va bene, senti, andiamo un po' al tema di oggi, va, perché vedo già che il centralino scalpita, così come i tanti messaggi che ci stanno arrivando al 349-238-6666. Partiamo. Parlate degli assegni, chiede un ascoltatore. Vabbè, li infileremo sicuramente all'interno della discussione di questa mattina, così come leggo anche il messaggio che non c'entra col tema che adesso andiamo ad introdurre, ma vale la pena sottolineare il caso di Andrea, che ci conferma che Telecom gli ha rimborsato nella bolletta di gennaio la famosa cifra che gli doveva quando temporaneamente avevano addebitato appunto le bollette a 28 giorni, sono una trentina di euro che Andrea si è rivisto appunto riaccreditate. Vabbè, meglio che perdere l'ombrello, ah, sì, come si dice, però attenzione al contante, l'assegno invece, per quanto riguarda l'assegno, è un pagamento di tipo tracciabile, ma non sempre al fisco piace se volete lo sconto. Ad esempio, se volete lo sconto per i lavori in casa, l'assegno per lo più non va bene. Ma qui abbiamo, cara Debora, degli esperti di valore mondiale. Li ho anticipati prima. Quindi è inutile che io mi avventuri in questi terreni. Allora, diamo in rigoroso ordine alfabetico per cognome il benvenuto, il bentornato a Cristiano Dell'Oste, collega del Sole 24 Ore. Buongiorno. E poi il benvenuto, anzi bentornato anche a lui, cioè Nicola Forte, esperto del Sole 24 Ore, consulente tributario. Buongiorno Nicola. Buongiorno a voi. Allora, da dove vogliamo cominciare? Perché appunto lunedì scorso il Sole 24 Ore, nella sua edizione del lunedì appunto, ha pubblicato questo tabellone che vi inviterei a cercare, è stato riportato anche sul sito del sole24ore.com. Con un po' di confusione faccio la ragazza del ring, come tutte le mattine. Esatto, potete trovarlo lì, gli abbonati naturalmente possono avere accesso alle edizioni precedenti, quindi cercate il numero del Sole 24 di lunedì scorso, dove distinguiamo... distinguete, Cristiano, le spese che possono ancora essere pagate in contanti e quelle no, tra tutto il coacervo delle spese sanitarie. Eh sì, è così. La regola più o meno sembra essere questa: se c'è il sistema STS, per parlare molto molto terra terra, e il sistema per cui ci chiedono il codice fiscale, ci dicono vuole detrarre, vuole lo sconto fiscale, insomma noi gli diamo il codice fiscale e qualcuno prende nota, farmacista, dentista, insomma, operatore sanitario che sia, allora in quel momento lì noi potremmo ancora pagare in contanti, se ho capito bene. In altri casi invece, se il sistema tessera sanitaria, il cosiddetto STS, non c'è, non conviene più pagare in contanti perché non avremmo più lo sconto dal fisco. Diciamo che questa è una buona sintesi, una regola che però, come tutte le regole, incontra diverse eccezioni. Perché altrimenti non saremmo nel sistema fiscale italiano, ma saremmo forse in quello di un altro paese più lineare. Ma che malizia stamattina! Purtroppo è così, purtroppo è così. Perché succede questo? Perché la legge di bilancio dice che in linea di principio le detrazioni al 19% vanno pagate con dei mezzi tracciabili, altrimenti la spesa non è detraibile, punto. E questo vale un po' per tutte le detrazioni, quindi ad esempio anche quella sull'abbonamento al trasporto pubblico locale, quella sulle spese funebri, l'affitto degli studenti fuori sede, eccetera eccetera. Le palestre se l'attività fisica l'attività è fatta sportiva con dei determinati ragazzi. Obiettivi. Assolutamente sì. Poi nel campo delle spese sanitarie viene data una sorta di salvacondotto, per cui in quel caso lì, per solo le spese mediche, alcune tipologie di spesa possono ancora essere pagate con mezzi non tracciabili, quindi in contante. Ci e quali sono? Un esempio. Allora, la legge di bilancio cita i medicinali, i dispositivi medici e poi le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private che siano accreditate col Servizio Sanitario Nazionale. Quindi se io vado a fare un esame in un ospedale e pago per questa prestazione un ticket, quello potrei anche pagarlo in contanti, non ci sono problemi. Se io vado in farmacia e compro un medicinale, posso pagarlo in contanti. Piccolo problema, se però io vado in farmacia e non compro un medicinale, ma pago una prestazione sanitaria, come ad esempio... misurazione della pressione. Misurazione della pressione, esattamente. In quel caso non posso pagare in contanti, ma dovrei pagare con un mezzo di pagamento tracciabile, quindi bancomat, carta. Da quello che capisco, tutto quello che faccio per avere una chiarezza di come devo comportarmi, mi devo portare dietro questa lista che avete pubblicato voi lunedì, perché a seconda di dove ti trovi c'è un comportamento, diciamo, di pagamento diverso da adottare. La legge di bilancio, nel tentativo di dare una semplificazione, in realtà ha un po' imbrogliato le carte, perché facciamo l'esempio delle spese per visite specialistiche. Vado dall'oculista, quella è una spesa che non passa tramite una struttura accreditata, perché un libero professionista devo pagare con mezzo tracciabile. Però attenzione, se quell'oculista, che pure opera in regime assolutamente di libera professione, mi visita in una struttura privata accreditata al Servizio Sanitario Nazionale, anche se la prestazione è privata, a quel punto lì, siccome la struttura è accreditata, a rigore della norma di legge io dovrei poter pagare in contanti. Quindi vedete come si complica la questione, e sul punto ovviamente non abbiamo chiarimenti ufficiali. Certo. Ancora aspettiamo Telefisco. Deborah, nel frattempo vuoi darci un aggiornamento dai mercati finanziari? Sì, guarda, mi prendo una pausa perché mi avete fatto venire il mal di testa, guarda. Basta con questo sessismo che bisogna sempre identificare le donne per l'aspetto fisico. Facciamolo per esempio su Mauro Meazza. Perché è stato assunto qui a Radio 24? Brizzolato. È bello. Bello. Brizzolato. Diciamo che Mauro Meazza lavora a Radio 24 perché è bello. Bello e monello. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta... Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com. Propositi per l'anno nuovo. Dieta. Sì, da lunedì. Palestra. Al massimo soft yoga. Prendermi del tempo per me. Sarà il solito tempo di un caffè. Almeno sul caffè non scendere a compromessi. Inizia l'anno con la qualità superiore di Nespresso. Con Nespresso White Days puoi avere la macchina Inissia e 100 capsule di caffè a soli 69 euro fino al 19 gennaio. Andare nelle boutique Nespresso o su Nespresso.com. Nespresso, what else? I miei risparmi. Interessi praticamente zero. Meno i costi, fa più o meno. Meno. I conti correnti rendono sempre meno. Banca Mediolanum invece ti dà di più. Sono Massimo Doris. Mediolanum oggi ti offre il 2% annuo sulle nuove somme vincolate a 6 mesi. Più un family banker dedicato per ogni tua esigenza. Mediolanum ti dà di più. Da sempre. Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Pubblicità per i correntisti tasso lordo sui vincoli in promo fino al 31 marzo. Documento promozioni e fogli informativi su bancamediolanum.it. Allora, com'è là fuori? 10 gradi sotto zero e una terribile bufera. Neve e ghiaccio dappertutto. Tempo perfetto. Ok, GLC, questo è il nostro momento. Sfida l'inverno con la trazione integrale 4MATIC del nuovo GLC. Oggi hai 4.000 euro di ecoincentivo Mercedes-Benz su tutta la gamma GLC. Se permuti la tua auto da euro 0 a euro 5. E con MyDrive Pass scegli la soluzione finanziaria più adatta alle tue esigenze. Scopri di più su mercedesbenz.it. Lo sai, ho un'auto nuova, un nuovo contratto di telefonia, una nuova banca e presto farò una vacanza da sogno. Hai vinto la lotteria? No, mi sono associato a Confcommercio. Tanti servizi e condizioni vantaggiose per farmi risparmiare e rendere la mia impresa più competitiva. Vai su associati.confcommercio.it. Confcommercio, tua, sua, di tutti. Due di denari. Una monetina a te, una te, una monetina pure a te, così fanno tre, una monetina per questa serata che non può finire, una per trovarti, l'altra per sparire. Ma scusate, parlate di pagare non in contanti, o col POS, ma in assegni non si può, scusate. Buongiorno, Casimiro da Roma. Volevo fare una domanda per quanto riguarda l'utilizzo dei POS e delle carte di credito. Ma una persona che ha avuto problemi con le banche, quindi le stesse banche non autorizzano all'emissione di carte di credito o addirittura non può avere fare l'utilizzo di conti correnti e quindi neanche di bancomat, come deve fare per pagare? Eh certo, perché uno non è che lo puoi tagliare fuori dalla vita, dall'ordinaria amministrazione. Insomma, una persona che magari ha avuto qualche problema adesso non può riattivare una vita finanziaria secondo i crismi che conosciamo, ma magari ha bisogno di sostenere delle spese sanitarie, cioè per quale motivo io non posso più avere il diritto alla loro detrazione proprio perché non ho più la possibilità di pagare con lo strumento tracciabile. Allora, argomenti. C'è questo spunto anche che ci viene dal primo dei due messaggi che abbiamo sentito, cioè ma gli assegni. Allora, chiediamo a Nicola Forte se ci fa un po' di chiarezza. Il senso l'assegno è un mezzo tracciabile, quindi dovremmo poterlo utilizzare. Allora, l'assegno è sicuramente un mezzo tracciabile, lo possiamo utilizzare per le spese sanitarie, anzi colgo l'occasione per ricordare un problema che può verificarsi, dato che la legge ha eliminato le sanzioni per chi, o meglio la legge di bilancio originaria non ancora convertita aveva introdotto le sanzioni, poi eliminate, anzi il DL 124 per la previsione, a oggi la mancanta installazione del POS non è sanzionabile. Allora io vado da un medico, lui non è il POS, come faccio? Rivive il vecchio assegno, posso sicuramente ai fini delle detrazioni delle spese sanitarie pagare con assegno bancario e quindi da questo punto di vista risolvo il problema. Con riferimento al quesito che ci veniva posto poc'anzi, posso sempre utilizzare una carta prepagata. Quindi vado presso l'istituto di credito, la carta prepagata viene rilasciata perché la carico in contanti, a quel punto posso utilizzare questo strumento alternativo, è un'altra possibilità. Quindi anche se si ha una reputazione pregressa di cattivo pagatore, per dirla in termini semplici, per ridescrivere magari la situazione di quell'ascoltatore, la carta prepagata si può regolarmente sottoscrivere, la banca è obbligata teoricamente a rilasciarcela. Sì, perché non mi concede una linea di credito, certo, come la carta di credito. Io alla banca do denaro e se non do denaro, la carta, proprio perché è prepagata, non mi viene caricata. Quindi è un problema che posso superare. Grazie. Sì, tra l'altro su questo possiamo ricordare, sono anche le prepagate per esempio delle poste, e non necessariamente una prepagata richiede di avere un conto corrente. Esatto. Esattamente. Oh, caro Cristiano, caro Nicola, gli ascoltatori giustamente mi hanno bacchettato dicendo attenzione, perché quel limite di 2000 e spicci euro per il familiare a carico dal 2019, quindi con effetto sulle dichiarazioni che andremo a fare quest'anno, è stato innalzato a 4000 euro. Allora lì sì che sono tutti indipendenti. Un attimo, piano con gli entusiasmi. Perché è stato sì innalzato, ma è stato innalzato per i figli di età non superiore a 24 26. Anni. 24, non 26, un 24. Altro ascoltatore dice 26, ok. Allora, sono considerati fiscalmente a carico dall'anno d'imposta 2019, quindi dichiarazioni del 2020, i figli, purché di età non superiore a 24 anni, se hanno un reddito complessivo inferiore, non superiore, pardon, a 4.000 euro. Per tutti gli altri, che so, il genero, il nonno, la moglie, quello che, tutti gli altri familiari a carico, ecco, quei familiari a carico lì vale ancora il limite dei 2.400, non ricordo esattamente il punto se, di singolo. Se vuoi 2.840,51. 2.840,51, grazie Cristiano dell'Oste. Dei depravati. Siamo dei malati, sì, l'ho è letto, vero. L'ho letto. 2.840,51, che è il vecchio limite che era espresso in lire, che sta ancora lì. Lì, bello, certo, abbarbicato. Ma quanto vi divertite voi a norme e tributi? Ah, guarda, una pacchia. Senti. Allora, vorrei... Cosa vuoi sapere d'altro? Allora, no, siccome Deborah? Abbiamo Nicola Forte ed è, sono giornate di shopping in questo periodo, magari uno va nel suo negozio preferito con l'obiettivo di svuotarlo con tutte le offerte possibili, e però insomma quel giorno si scorda la carta di credito e vuole pagare 1000 euro di merce in contanti. Può sempre farlo Nicola Forte, perché ogni tanto ribadire un po' questi limiti sui comportamenti di noi consumatori è importante, perché ci sfuggono. Sì, sì, lo può sicuramente fare, almeno per il momento, perché oggi fino al 30 giugno il limite all'utilizzo del contante è, per la precisione, 2.999,99 euro. Il limite scende a 2.000 dal 1 luglio 2020 e scende a 1.000 euro dal 1 gennaio 2022, quindi per ora sì. Queste soglie sempre ballerine in questi anni, ogni anno abbiamo una novità. E guarda, sono così ballerine che è il momento di prendersi una pausa poetica. Ah sì. Piace allo fisco aver, con l'anno entrante, un po' di novità dal vario tono. Qualche complicazione tonitruonante, un credito, una stretta o un condono. Per il 2020 è già abbastante la legge di bilancio, che offre in dono più vincoli nell'uso del contante per chi vuol detrazione, senza perdono. Io, che a ridurre l'IRPEF sempre ambisco, leggo le circolari e i messaggi, due di denari ascolto come un cantico, e attendo speranzoso il telefisco il 30 di gennaio coi suoi saggi esperti per non perdermi nel traffico. Due di denari. Scusate, ma se uno ha la carta di credito o il banco, ma non va in giro a pagare con i contanti, dai. Ciao! Voi non vi rendete conto di quando dite di cambiare banca, cosa significa per una persona specialmente anziana, quando hai un prestito in corso, quando hai i BOT, quando hai il pagamento di tutte le utenze, i disguidi che ci possono essere, una persona che è malata, che non può neanche uscire spesso. Quindi non è questo il metodo, ci vorrebbero dei controlli, perché io cambio banca, poi dopo 2-3 anni mi aumentano il costo del bancomat e altre cose, devo cambiare banca un'altra volta, e non è questo il metodo. Comunque vi ringrazio e vi ascolto sempre. Signora Carla da Roma. No, l'ascoltatrice ha certamente ragione, ci sono certe categorie sociali che ovviamente hanno più difficoltà a gestire in maniera tranquilla il loro rapporto con la banca, con l'intermediario finanziario, però insomma siamo diventati consumatori in un mondo complicato, così come se facciamo la spesa in un supermercato di cui non ci piace come la commessa ci tratta, i prezzi sono troppo alti, cambiamo, è più facile cambiare, con la banca è tutto più complicato, ma dobbiamo sforzarci di essere un pochino più attivi anche in questo senso. È anche vero che magari per certe categorie un po' più svantaggiate, se un intermediario si rendesse più simpatico, a volte più disponibile a renderci la vita più semplice, sarebbe anche quella una grande operazione, uno sforzo che noi apprezzeremo molto. Ci sono però per certi profili conti correnti più semplici, conto corrente famoso ex il di conto base. Corrente di base, sì. E poi ci sono anche delle norme di tutela dei consumatori perché vogliono cambiare banca, per cui le banche sono tenute a intervenire e a completare il percorso entro un certo periodo preciso. Adesso non ne stiamo parlando oggi, ma secondo me potremo tornarci sul tema della portabilità, breve. Insomma, sì. del rapporto con la banca. Mentre ascoltavamo la notizia sulla viabilità, Cristiano dell'Ostesi voleva ricordarmi che c'è anche tutto un tema di come conservare le prove del pagamento tracciabile o tracciato, perché anche quello poi è importante nel caso di successivi controlli del fisco. Non bisogna più produrre alcunché, credo, nella dichiarazione, mi confermi Cristiano? Ma qua in realtà, per quanto riguarda questa norma nuova, non abbiamo ancora indicazioni, però abbiamo le circolari che vengono emanate ogni anno dalle entrate, la cosiddetta circolare 730, quella che riassume tutte le regole per sfruttare i diversi bonus, che per altre spese che già prevedevano in passato l'obbligo di pagamento tracciabile, in realtà richiede di conservare anche, oltre al giustificativo della spesa, il documento che comprova la modalità di pagamento, quindi la documentazione relativa all'addebito sul conto corrente, per esempio. Nel caso dell'assegno viene chiesto per alcune donazioni che possono essere fatte anche tramite assegno di conservare, oltre alla ricevuta del pagamento, anche un'annotazione su questa ricevuta che per così dire confermi la finalità del versamento tramite l'assegno. Ecco, questo è un aspetto da non sottovalutare in questa fase, perché è tipico, secondo me, ancora l'abitudine di chi va a fare una spesa, paga con mezzo tracciabile, poi dice tanto la spesa è tracciabile e butta lo scontrino che ci viene rilasciato, non lo scontrino fiscale o la ricevuta, ma quello che comprova l'avvenuta transazione col bancomat. Ad esempio quello che esce dal POS, no? Quello che esce dalla macchinetta. È chiaro che qui, se la spesa è tracciabile, tracciabile rimani, quindi io potrei anche l'anno prossimo, al momento di presentare la dichiarazione dei redditi, andare a recuperare l'addebito su conto. Però capiamo anche che poi, quando gli importi sono piccoli, mettersi a fare la spunta dell'estratto conto, certo, magari andare con l'estratto conto al CAF, non è proprio la cosa più semplice del mondo. Quindi forse è meglio pensarci ora, in attesa che magari l'agenzia ci semplifichi un po' la vita e dica che possiamo farne a meno. Allora, per incentivare l'utilizzo della moneta elettronica di pagamento, lo Stato ci avevano promesso l'anno scorso che ci avrebbero premiato, no? Il cashback, te lo ricordi? Sì, però l'ho perso un po' di vista, non so se Nicola forse... Aspetta un attimo che c'è Paola dalla provincia di Milano che proprio su questo credo avesse una domanda precisa. Paola, benvenuta. Sì, buongiorno. Più che sul cashback, io volevo sapere dal punto di vista dell'esercente... si era parlato di una restituzione delle commissioni su certe transazioni. Tutti premiati affinché si incentivasse l'utilizzo appunto dello strumento elettronico. Paola, grazie, tra l'altro la sentiamo male, ma ho capito. Allora, dal punto di vista del pagatore, quindi noi, Nicola Forte, ma anche dell'esercente che ci consente di pagare con il POS, arrivano o no questi riconoscimenti da parte dello Stato? Diverse disposizioni, il premio all'esercente tramite l'attribuzione di un credito d'imposta, ma attenzione, riguarderà i soggetti di maggiori dimensioni le cui entrate superino i 400.000 euro nell'anno precedente e ovviamente ci dovrà essere un decreto di attuazione. Idem, i pagamenti che vengono effettuati a titolo privato, personale, extra attività, ma la norma dice utilizzo ricorrente di carte di credito in ragione dei volumi, qui dovrà esserci un decreto entro il 30 aprile prossimo, se non e quindi dovremo ancora capire di più. Abbiamo anche Maria dalla provincia di Bolzano che invece ha un problema relativo a utilizzo del bancomat, utilizzo dei contanti per una spesa di tipo sanitario. Maria, buongiorno. Buongiorno. Il limite del mio bancomat è 1000 euro al giorno, per cui mi sono trovata a dover saldare due paia di occhiali per un ammontare di 1300 euro. Allora ho prelevato in contanti 1300 euro, sono andata dal venditore degli occhiali e mi ha fatto due scontrini, uno di 700 e uno di 600, corrispondente agli importi dei due occhiali. Né sulla ricetta medica né sugli scontrini appare il mio codice fiscale. Vorrei sapere se rischia di non poter detrarre questa spesa dalla dichiarazione dei redditi. Allora, Cristiano, stai cercando la risposta? No, stavo riscontrando semplicemente il fatto che gli occhiali sono comunque un dispositivo medico, quindi sono uno di quei beni che possono ancora essere pagati in contanti. Certo, quindi basta la certificazione dell'avvenuto pagamento. Quindi basta la certificazione dell'avvenuto pagamento, esattamente. Quindi da questo punto di vista la nostra ascoltatrice non dovrebbe perdere alcuna detrazione. Tra l'altro, quando noi parliamo di dispositivi medici, includiamo anche degli apparecchi che non vengono acquistati né in farmacia né da operatori sanitari. Per esempio, i materassi ortopedici o i cuscini ortopedici, questi non si comprano, insomma, si comprano in negozi comuni, diciamo, che non trasmettono al sistema tessera sanitaria, possono essere pagati in contanti e restano detraibili. Allora, ci sono delle altre domande, perché poi ovviamente la casistica è cara Deborah. Ognuno vuole la soluzione per sé. Spese veterinarie, Cristiano, qui è un punto un po'... Le spese veterinarie sono agevolate con la detrazione del 19%, quindi su di loro si applica il bando al contante dal 1 di gennaio, quindi vanno pagate con mezzi tracciabili. Si è posto il tema dei medicinali destinati agli animali, qui non abbiamo una risposta ufficiale ma solo un'indicazione tecnica che ha dato Sogei agli operatori, Sogei è la società informatica del fisco, alle case di software, da cui sembra che l'indicazione sia di escluderli dalla salvaguardia, quindi anche i medicinali per animali, quindi, e non solo le prestazioni del veterinario, dovrebbero essere pagati con mezzi tracciabili. Spesa sportiva dei figli, e altro qui, tipo di spesa qui, di cui ma altra detrazione al 19% e quindi obbligo di pagamento con mezzo tracciato. Qua è un tema abbastanza complicato, perché mentre la maggior parte dei medici sono o dovrebbero già essere dotati di POS, e le associazioni sportive, spesso del mondo dilettantistico presso cui i ragazzi fanno attività, potrebbero non avere questi mezzi. E allora lì due alternative: o si procede con il bonifico se l'associazione, diciamo, non ha il POS, o si procede con l'assegno. E allora torna di attualità il caro vecchio assegno. Torna di attualità il vecchio assegno. Ci ha confermato l'utilizzabilità Nicola Forte. Io mi disinteresso a tutti gli argomenti di cui avete parlato, perché parteciperò alla lotteria degli scontrini e vi saluto insieme a Nicola Forte. Nicola, grazie per essere stato con noi, a presto. Grazie a voi. Grazie anche a Cristiano. Grazie. Buona domenica. Questa è ancora Bang Bang nella versione di chi, di Grazia? Non lo so, adesso parte il sonno. Ornella Vanoni. Poi cercheremo anche quella di Mina. Adesso passiamo al fine settimana. Io voglio quella dei Converse, la versione napoletana. E con questa missione, questa sfida, ci risentiamo lunedì.